Mentre qui in regia i lavori proseguono per questo condizionatore, così magari recuperiamo un po' di fresco e anche di velocità nei computer, si spera. Qua il tempo purtroppo non aiuta, abbiamo visto che c'è stata un po' di pioggia, forse anche un po' di più di quello che si poteva immaginare. E come da previsione effettivamente anche al sud arriva il maltempo con piogge e temporali su quasi tutta la Sicilia. Per quanto riguarda il nord Italia ancora le temperature sono ferme a 35-40 gradi, mentre qui da noi intorno a Palermo e provincia le temperature sono crollate sui 27 gradi, addirittura Pescara a 22 gradi, e altri temporali sono previsti in altre regioni d'Italia come Marche, Abruzzo, Lazio, Campania. A Catania ad esempio la temperatura è scesa a 26 gradi, il cielo è completamente oscurato, piogge anche sull'Etna, e ci aspettiamo che magari la settimana di Ferragosto possa migliorare. Ancora i meteorologi non vogliono pronunciarsi, evidentemente vogliono aspettare la fine di questo weekend per magari dare delle previsioni quanto più attendibili possibili. E intanto noi non possiamo che sperare che il Ferragosto si possa trascorrere al sole, come magari tutti vogliono, magari per poter fare un buon falò senza magari avere sorprese di pioggia, e quindi magari non poter accendere il fuoco a causa della sabbia magari umida. Ma intanto noi di CRM continuiamo con la nostra bella musica, noi non possiamo far altro che trasmettere buona musica, non possiamo purtroppo monitorare il tempo, non possiamo comandare sulle condizioni meteorologiche, ma possiamo comandare sulla nostra playlist. Siamo alla posizione numero 17, questo è Neffa con Quando Sorridi. 17. Da portare con sé, non dirmi che tu non lo sai, ma più ci pensi e più succede che poi finisce che non ce la fai. Sospesi in volo su una grande giostra al suono della musica, giriamo io e te, giriamo io e te, la stessa vita così amara qualche istante fa, se solo tu vuoi poi diventa più dolce che mai. Non lo sai che quando sorridi è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata così com'è. Ognuno ha un po' di amore dentro di sé, non dirmi che tu non ce l'hai, ma più ne chiedi e più non serve, perché dipende da quanto ne dai. E puoi lasciarti andare fino in fondo alla tua solitudine, se è quello che vuoi, se è quello che vuoi, ma finché al mondo c'è qualcuno che ci tiene a te, ricorda se puoi, quello è il bene più grande che hai. Non lo sai che quando sorridi è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata così com'è. Sorridi è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono. capiscono a che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata, così com'è. Non lo sai che quando sorridi è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata, così com'è. Capital Cities, canzone uscita nel 2011, ma effettivamente di grande successo a partire dall'aprile 2013, grazie ad uno spot di una nota compagnia telefonica in Germania. Vediamo questo successo, che praticamente è uscito 2 anni fa, ma che solo quest'anno rivediamo nelle hit di tutta Europa. Questi sono i Capital Cities, Sight and Sound. E 25 sempre qui con CRM Speedy Top in compagnia di Fabio Diliberto. Siamo alla posizione numero 15 e per questa posizione abbiamo un gruppo pop svedese formato da Johanna Berglund, Helena Lindberg e Marta Waters. Parlo di Le Kid e parlo di una canzone estratta dal loro nuovo singolo We Are Young, appunto intitolata proprio così, che sta spopolando in queste settimane in tutta Europa. Il singolo arriva qui in Italia su etichetta Time Records. Questa settimana si appresta a diventare addirittura uno degli slogan per la prossima stagione estiva. Quindi pensate il successo di questo brano. Molte radio la stanno proponendo, lo facciamo anche noi. Effettivamente dal brano si apprende l'influenza musicale che le Kids hanno da parte di sicuramente Kelly Minigui, Blondie, She's Our Sister e altri. Quindi questo brano, tutto un concentrato di energia, ci accompagna per questa estate che comunque ancora non è delle migliori. Certamente non entrerà nelle classifiche delle migliori estati, questa del 2013 è tardata ad arrivare, è arrivata tardi quindi, ma non va molto bene, quindi sicuramente non sarà tra le migliori. Ma intanto noi continuiamo con We Are Young, The Kids. 15. E 34, sempre qui con Speed Up in compagnia di Fabio Di Liberto. Apprendo con stupore che è stata scoperta la molecola che regola l'umore addirittura, ecco. Quindi attendiamoci la nascita di nuovi farmaci relativamente a appunto alla regolazione dell'umore. Questo è Questa è una molecola trovata grazie a una ricerca condotta dal Raikon Brain Science Institute in Giappone. Questa molecola agisce sui neurotrasmettitori dell'umore. Il regista dell'umore, diciamo che è un enzima che è chiamato Raines, e il suo compito è quello di avviare alla degradazione una importante proteina del cervello che viene chiamata MAO-A. L'attività di regolazione dei livelli di MAO-A è fondamentale appunto per controllare i nostri stati d'animo. Questa proteina agisce infatti come se fosse una mannaia che rompe le molecole di diversi neurotrasmettitori, influenzando la nostra emotività. Questo esperimento è stato condotto su alcuni topi di laboratorio, e infatti quando questa MAO-A, questa importante proteina, è assente, il comportamento dei topi risulta antisociale e aggressivo, mentre quando manca l'enzima Raines e le proteine di MAO-A sono in quantità elevate, i topi risultano essere più ansiosi e reagiscono in modo anomalo allo stress. Quindi probabilmente tra qualche anno ci saranno dei farmaci in grado appunto di farci controllare le nostre emozioni. Non so fino a che punto la cosa possa essere positiva, in quanto le emozioni sono belle, sono tali appunto perché sono improvvise, non dovrebbero essere controllate, ma ovviamente la medicina va avanti. Probabilmente controllare le emozioni per qualcuno potrebbe essere positivo, per quanto mi riguarda non lo è molto. Ma se volete farci sapere la vostra, ovviamente potete farlo sempre inviando un sms al 335 56 37 251, oppure scrivendoci tramite il nostro sito www.crmhappyradio.it, oppure tramite la nostra pagina Facebook CRM Happy Radio. Ma intanto la nostra mattinata musicale continua, la nostra speedy top, la nostra classifica delle 20 canzoni più trasmesse, più ascoltate, più ballate, continua. Siamo alla posizione numero 14. Questo è Justin Timberlake con Mirrors. 14. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can take it as no place we couldn't go. Just put your hand on the pedals, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, 'cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. On the past, are we trying to pull you through? You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The biggest thing that's set in my heart is a space, and now you're home. Show me how to fight for now. And I tell you, baby, it was easy coming back into you once I Cause when and you never see the light. It's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me out the way I want you to stay. La la, Naughty Boy, motivetto molto orecchiabile che entra e non esce più dalla nostra testa. E intanto qua noi continuiamo con la musica e con le notizie estive più curiose, più interessanti. Parleremo di spiagge. Qual è la regina delle spiagge in quest'estate? Da un sondaggio effettuato da Legambiente risulta che la spiaggia regina dell'estate 2013 si trova in provincia di Salerno ed è la Calabianca di Camerota, nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Menzione speciale va anche alla spiaggia dei Conigli di Lampedusa, Agrigento, quindi anche alla nostra Sicilia. Ci sono anche altre 15 spiagge da menzionare in Puglia, in Sardegna, anche in Calabria. Infatti abbiamo come classifica prima Salerno con la spiaggia di Calabianca e Camerota, poi segue la spiaggia dei Conigli dell'isola di Lampedusa, Scala dei Turchi sempre qui in Sicilia a Real Monte, Cala Rossa a Favignana a Trapani, Cala della Caldane nell'isola del Giglio, Grosseto, Cala di Forno a Maiano in Toscana e altre spiagge molto belle, anche molto votate. Quindi vi invito magari a visitare il sito di Lega Ambiente, dove potrete trovare tutta la lista delle spiagge migliori d'Italia e magari, per chi ancora non avesse deciso quale spiaggia andare a passare le proprie vacanze, può prendere spunto da lì. Gli amministratori delle varie località che ho appena menzionato saranno premiati per queste votazioni il 17 agosto nell'ambito della 25esima edizione di Festa Ambiente, appunto il Festival Nazionale di Ecologia, Solidarietà e Bellezza, organizzato appunto dalla Lega Ambiente, che si terrà a Grosseto dal 9 al 18 agosto. Per cui la cosa che mi fa più piacere sicuramente è che in seconda posizione troviamo una spiaggia qui nostra, siciliana, nostrana. Intanto noi continuiamo con la nostra musica e dopo la pubblicità proseguiremo con la nostra classifica. Siamo circa a metà della nostra classifica, ma ancora diciamo dobbiamo proseguire con la posizione numero 11, ma questo dopo la pubblicità. Tra poco arriva la posizione numero 11 e vi anticipo che qualcuno alla posizione numero 11 è pronto a correre, anche nella vita. Questo è Marco Mengoni e la sua metafora, la sua corsa metaforica della vita è pronta, è una staffetta con chi è più giovane e con chi è più anziano, ci dice il nostro cantautore italiano. Mengoni corre nello stadio di Verona con, dal video potete vedere, con un completo molto elegante, un paio di sneakers e infatti queste scarpe sono molto visibili nel video. Questo accostamento potrebbe essere diciamo un po' singolare, ma Mengoni sappiamo che è un cantautore molto particolare. La sua intenzione, ci dice in un'intervista molto diciamo internos, molto particolare, è quella di lanciare un nuovo stile di moda nella prossima estate. Intanto noi continuiamo con la posizione numero 11 e siamo pronti a correre insieme a Mengoni, siamo pronti a correre verso il mare se giustamente il tempo si sistema. Quindi andiamo con Marco Mengoni. 11 con te, ero immobile, oggi ti vedrò di colpo sparire, fra la folla te ne andrai, mi sono rotto delle scuse, sono stanco dei tuoi guai, hai detto che non vuoi più dice. Vediamo rientrare alla posizione numero 10 I Follow Rivers. Da qualche mese effettivamente era fuori dalle classifiche e da adesso, da oggi, si riconferma un po' e si posiziona, devo dire, a metà della classifica. Risultato non da buttare effettivamente. Ma intanto noi cerchiamo sempre di dare notizie più curiose. Adesso ci spostiamo un attimo a Milano, dove da poco a disposizione dei milanesi vi è una flotta di 150 smart che entro la fine di settembre diventeranno circa 450, per offrire ai milanesi un nuovo servizio denominato car sharing, firmato da Daimler ed Europe Car e chiamato Car2Go. Il servizio, in pratica al suo debutto in Italia, prevede la possibilità da parte dei cittadini di noleggiare una Smart for Two, cioè per, ovviamente sappiamo tutti, la Smart è una utilitaria per due persone, importante a Milano in quanto la città, essendo molto grande, è molto difficoltoso trovare posteggio. Questo però, questo servizio offre, permette di noleggiare una Smart in piena autonomia, senza bisogno di andare in stazioni dedicate al punto al noleggio. Quindi con meno restrizioni, le vetture potranno essere usate per il periodo necessario e lasciate in ogni parcheggio pubblico all'interno di un'area che si estende per circa 120 km quadrati. Quindi senza problemi di tempo, senza versamenti di canoni mensili, senza quindi anticipare ingenti somme. E in particolare il prezzo viene calcolato al minuto. Gli utenti registrati pagheranno solo in caso di effettivo utilizzo, di effettivo noleggio, per un prezzo che si aggira intorno ai 30 centesimi al minuto, all inclusive, quindi incluso tasse, assicurazione, carburante, costi per posteggi privati, eccetera. In particolare Car2Go, insieme a quindi Europcar e Stefan Müller, ci suggerisce che l'Italia è il primo mercato al mondo per Smart e la For Two è una perfetta combinazione di lifestyle e funzionalità. Infatti risulta essere molto apprezzata, in quanto sappiamo che per le sue dimensioni è molto, pone molto a proprio agio il guidatore in ambito urbano. Molte di queste Smart saranno anche elettriche, in versione elettrica, quindi contribuiranno all'eco driving, che sicuramente in questo periodo è molto importante. Ma noi continuiamo con la nostra classifica, eravamo alla posizione numero 10, adesso dopo la pubblicità continuiamo con le prossime posizioni. Sono veramente curioso di scoprire chi ci sarà alla posizione numero 1 di questa settimana. CRM. Pubblicità. Nel cuore del centro storico di Cefalù, nell'antico palazzo Ortolani, di fronte al museo Mandralisca, si trova il Carretto Trattoria con Pizzeria, un locale caldo ed accogliente per sentirsi subito a casa propria. Al Carretto Trattoria con Pizzeria la cucina è semplice e casalinga, con antichi sapori, curata con armonia dalla famiglia Barone, che con esperienza e creatività renderà i vostri momenti conviviali, intimi e familiari con piatti tipici locali. Il Carretto Trattoria con Pizzeria, via Mandralisca 66, Cefalù, telefono 0921 820097, e riscopri i sapori della Sicilia. Lo Gioco, trasporti e traslochi nazionali ed internazionali per enti pubblici e privati. La novità, il nuovo automezzo con piattaforma aerea fino a 25 metri per montaggio canalette, potatura alberi, sistemazione intonaci, noleggio con e senza operatore. Inoltre autogru fino a 15 tonnellate e autoscala con altezza fino a 10 piani. Trasporti e traslochi Lo Gioco, professionalità negli imballaggi speciali, spedizioni con frequenze settimanali, trasporti pianoforti e casseforti, magazzini per depositi. Lo Gioco, leader nei trasporti e traslochi con mezzi all'avanguardia. Via Bazzana 34 a Cefalù. Telefoni 330 850 751 e 339 587 3812 e 0921 422 947. Ci trovi anche su internet www.traslochilogioco.com. Cortesia, affidabilità e professionalità al vostro servizio. Come fai ad avere un'azienda così splendente? Semplice, mi fornisco da LR Chimica. Producono detergenti professionali per le imprese, la casa e anche per gli autolavaggi. LR Chimica, zona industriale Termini Imerese. Prova il nostro kit promozionale. Telefona allo 091 630 42 24. LR Chimica, pulito, garantito. Ed inoltre trovi i prodotti per la tua piscina. Un ambiente di grande fascino e ricco di atmosfera, dove gustare la genuinità di sapori raffinati e prelibati. Ristorante Pizzeria Kenzia, al Trappito da Nicola. Per una cena indimenticabile con piatti particolari, decorati con estro e fantasia, per la pizza con gli amici, gustosa e ricca di ingredienti di qualità. Ristorante Pizzeria Kenzia, al Trappito, con suggestiva terrazza sul mare, per i buon gustai che pretendono il meglio. Nel centro storico di Cefalù, in via Bordonaro 96. Per prenotazioni e info, 0921 42 3801. La forza di un team vincente. Arriva sempre il momento di cambiare. Gli affari corrono su internet. Raggiungi migliaia di clienti con il progetto madoniexpo.com. Pubblicità al cubo. Maggiori info su www.madoniexpo.com. Per la tua pubblicità, CRM 0921 423456. 12:16, siamo a metà della puntata, un po' più della metà effettivamente, e siamo alla posizione numero 9. Per voi oggi c'è alla posizione numero 9 un singolo tratto dal nuovo album che uscirà il 7 ottobre 2013. Parlo dell'album TBA di un noto cantautore che da poco ha trovato la forza e il coraggio di cimentarsi in un album tutto suo. Non dirò momentaneamente di chi si tratta, vediamo se magari qualcuno riesce a scoprirlo prima che lo dico io. Se magari ci riuscite mentre parlo, ovviamente inviatemi subito un messaggio a www.crmpiradio.it oppure al 335 56 37 251. Parlo di una voce che prima sentivamo nel gruppo Rudimental, nel singolo Feel the Love, poi in Not Giving In e in un'altra nota band inglese, in un album denominato Home. Allora, qualcuno ancora non riesce a dirmi chi è, va bene, non c'è problema, lo dico io. Parlo di John Newman, che da poco, come già detto, ha trovato la forza di cimentarsi in questo album che uscirà a breve. Parlo del nuovo singolo Love Me Again. Infatti le premesse per questo suo primo lavoro da solo sono tutte positive, visto appunto l'enorme consenso ricevuto dal pubblico, dalle classifiche iTunes di questo singolo. Infatti la voce del cantante effettivamente si muove tra il pop, tra il soul, l'house, ma anche un pizzico di R&B. Effettivamente gran bella voce. E alcuni qua scrivono che effettivamente questa canzone Love Me Again mi piace tanto, infatti mi arrivano dei messaggi e quindi ho fatto bene a sceglierla e a metterla in playlist. Per questo noi ci attendiamo anche alle playlist delle grandi network. Noi la posizioniamo alla numero 9, quindi John Newman con Love Me Again. 9. Turned wrong, left your heart sold. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Oh, I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong to you. You belong to me, my sweetheart. I belong to you. You belong to me, my Mentre c'è chi va in vacanza cercando magari le mete low cost, qualcuno pensa bene di spendere un bel po' di denaro in una settimana. Parlo di un turista inglese, Mark Rushton, che è affetto da un disturbo bipolare estremo, in vacanza a Santander, una famosa città della Spagna, è stato capace di spendere ben 170.000 euro nel corso di una sola settimana di shopping. E in particolare il nostro turista spendaccione ha svuotato un supermercato di Differente, catena spagnola di negozi alimentari, acquistando ben 30 pacchi di cibo. Poi si è recato da Kawasaki, un negozio di calzature alla moda, dove ha acquistato ben 17 paia di scarpe e al costo di 1.300 sterline l'una, ecco da precisare. Infine ha fatto tappa in una tabaccheria dove ha comprato oltre 700 euro di sigari e di tabacco indiano. La diciamo folle spesa di Rushton è terminata per un piccolo problemino, in quanto uscendo da un negozio di cubani non avendone pagato uno venne avvisata la polizia, che appunto ritirò qua il pazzo turista e lo portò al reparto di psichiatria. Effettivamente questa vicenda ha suscitato grande scalpore in Spagna. Ovviamente non sono mancate altre voci sui dettagli, come ad esempio il fatto che dopo una tappa in albergo è rientrato per svuotare gli ultimi scaffali rimasti nel supermercato. Inoltre pare che il bizzarro turista abbia anche fatto visita all'ufficio del turismo di Santander e abbia flirtato con il personale prima di prenotare una lussuosa cena nei ristoranti più esclusivi della località. Diciamo che questo suo disturbo è diciamo una malattia che colpisce il 2% della popolazione, è una sindrome maniaco-depressiva che è caratterizzata da una alternanza fra le due condizioni contropopolari dell'attività psichica e la sua euforia per l'inibizione e anche per il fatto che esso si trovava fuori dalla propria nazione. Quindi effettivamente per i negozianti la visita di Mark Rushton sarà stata effettivamente piacevole. Ovviamente dopo una spesa di 170.000 euro vorrei vedere chi non chi dei negozianti non era contento. Ma intanto la nostra classifica continua qui. Siamo alla posizione numero 7. È per voi Calvin Harris con I Need Your Love, che sicuramente molti conoscerete. È uno dei brani che potrebbe prestarsi, potrebbe diventare magari uno dei tormentoni, perché abbiamo già detto la scorsa puntata che quest'anno ci sono molte canzoni candidate a diventare tormentoni dell'estate. Noi stiamo ancora indagando, speriamo a fine agosto di dirvi chi sarà il vincitore di questa classifica. Intanto continuiamo con Calvin Harris. 7. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh. Just Give Me a Reason. Siamo alle battute finali di questa puntata del 10 agosto 2013. Ancora pochi minuti in mia compagnia e ovviamente vi invito sempre a seguirci ogni sabato dalle 11 alle 13, sempre sulle stesse frequenze. Ma intanto, per chi ha comprato un nuovo telefonino e magari non sapete come liberarvi di quello vecchio, per voi c'è un'idea molto pratica, molto fresca e anche molto bizzarra. Infatti vi basterà scaricare l'applicazione Send Me to Heaven, lanciare in aria il vostro dispositivo, il vostro smartphone, e provare a riprenderlo poi con le vostre mani, e l'applicazione registrerà l'altezza raggiunta dal vostro lancio, e quindi potete fare una sorta di sfida con gli altri giocatori. Ovviamente state attenti a non farvi prendere la mano o l'eccessiva passione, perché magari vi può capitare di giocare con il nuovo telefonino, magari sbagliate smartphone e lanciate in aria quello nuovo anziché quello vecchio. L'applicazione è sviluppata da alcuni ingegneri informatici norvegesi della Carrot Pop. Ovviamente è gratuita, lo troverete nel Play Store, mentre per quanto riguarda la Apple ha deciso di evitare questa nuova applicazione, questa forma di gioco un po' pericolosa, che è stata definita un'applicazione brillante ma idiota. Effettivamente non posso dire di non essere d'accordo questa volta con casa Apple. L'applicazione potrebbe rivelarsi anche molto pericolosa. Intanto l'azienda di Cupertino non vuole questo tipo di applicazione. Infatti, per chi è utente Apple non troverà nel suo store, non troverà questa applicazione. Intanto le applicazioni sia per Apple sia per Android vanno ogni giorno aumentando. Si parla di circa più di 5 milioni di applicazioni sia su Play Store sia su App Store. Settore in costante crescita e effettivamente andiamo sempre vivendo nuove applicazioni giornalmente. Quindi per chi volesse intanto liberarsi del proprio telefono può provare questa applicazione. Ovviamente fatelo all'aperto, non lo fate con persone accanto, fatelo magari in campi molto estesi per evitare che il telefono lanciato possa finire in testa a qualcuno. Siamo alla posizione numero 5, per voi Alex Britti con Baciami. 5. Mi viene incontro la notte, quando cercavo di evitare l'impatto. Si dice porta consiglio, ma è solamente un altro sporco ricatto. Di quando andavo in vacanza, è solo un vecchio ricordo abbandonato a sé. E se non porto pazienza, mi ritrovo da solo con la notte più lunga che c'è. Apro una pagina nuova, per dare un freno a questa Italia che avanza. È un periodo cupo, molte chiacchiere ma poca sostanza. Mi viene incontro la vita e la ricevo sconvolto dalla vita che già c'era in me. E mi ritrovo basito in questo mondo di matti, che per matti una cura non c'è. E allora baciami e portami a ballare, che sai come arricchire i giorni miei. Fa che sparisca tutto il male, tu che sai farmi ritornare in me. Oh, oh. Mi viene incontro la strada, dopo 20 anni che ci stavo correndo. Cosa vuoi da me? Domandato quasi quasi ridendo. Quanti chilometri andati, quante notti al volante, inseguendo un sogno a metà. Adesso che sono grande faccio ancora domande, non si ferma la curiosità. E allora baciami e portami a ballare, tu che sai come riempire i giorni miei. Fa che sparisca tutto il male, tu che sai farmi ritornare in me. E allora fa che sparisca la nebbia e la

ore di sale, sa sapessi che storie, sa sapessi che storie. Guardala che mare, guardala che mare, sotto sotto questo sole, sotto sotto questo sole. Sa, prova costume. Questa ebbrezza che accarezza come piume. Metto via il piumino, prenoto il lettino, gonfio il materassino e abbasso il finestrino. Per arrivare prima mi alzo di primo mattino, ma quando sono lì mi diverto come un bambino, perché stare qui è divino. Sono così rosso, posso sembrare in botta di vino. Sapore di sale, sapore di sale, sapessi che storie, sapessi che storie. Guardala che mare, guardala che mare, sotto sotto questo sole, sotto sotto questo sole. Camicia bianca e occhiali, roba seria. Ho visto più fondali, marini di Valeria. L'estate in gombe, con il suo calore. Sta a te capire qual è il posto migliore. Prendo un'estate al limone, che sotto sotto questo sole si muore. Picchia sulla testa, c'è bisogno di un Auli, ma è sapore di sale, come Gino Paoli. Saluta mamma, digli che va una festa, dove l'aria è fresca, non le canne da pesca. E anda con un'ombrella, ha fatto un tormentone. La mia è la canzone dell'ombrellone. Saluta mamma, digli che va una festa, dove l'aria è fresca, non le canne da pesca. E anda con un'ombrella, ha fatto un tormentone. La mia è la canzone dell'ombrellone. Sapore di sale, sapore di sale, sapessi che storie, sapessi che storie. Guardala che mare, guardala che mare, sotto sotto questo sole, sotto sotto questo sole. Sapore di sale, sapore di sale, sapessi che storie, sapessi che storie. Guardala che mare, guardala che mare, sotto sotto questo sole, sotto sotto questo sole. Guardo che tutto vada al meglio come il bagnino. A te non posso vederti imprendito col calzino. Non è carino creare una discussione, ma se ce l'hai con me avrei bisogno di protezione. Attenzione che ti si accumula la rabbia. Puoi fare il principe solo in un castello di sabbia. Spero tu sappia che ho più inchiostro di una steppia. Dentro questa acqua limpida c'è chi ci si rispecchia. Saluta mamma, digli che va una festa, dove l'aria è fresca, non le canne da pesca. E anda con un'ombrella, ha fatto un tormentone. La mia è la canzone dell'ombrellone. Vai. Saluta mamma, digli che va una festa, dove l'aria è fresca, non le canne da pesca. E anda con un'ombrella, ha fatto un tormentone. La mia è la canzone dell'ombrellone. Vai. Sapore di sale, sapore di sale, sapessi che storie, sapessi che storie. Guardala che mare, guardala che mare, sotto sotto questo sole, sotto sotto questo sole. Due. Everybody get up. some fucking blast. Hey, yeah. Hey, yeah. Malibu to Paribu, yeah, I had a big machine bad ear. So, hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In 100 years, not there would I. Pull up on side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I dead watch, and wait for you to salute and chew, dead pimp. Not many women can refuse, dead pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused, dead pimp. Do it like it hurt, like it hurt. What you don't like, work? Hey, hey, hey, hey. Baby, can you breathe? Got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur. No more pretending. Blurred Lines alla posizione numero 2. Quindi, signori, siamo arrivati alla fine della nostra classifica. E intanto vi ringrazio sempre per l'ascolto. Approfitto subito per augurarvi un buon weekend, sperando che il tempo regga e che vi faccia fare le vacanze nel migliore dei modi. Anche se forse proprio questo weekend il tempo non sarà eccessivamente buono, quindi non vi permetterà purtroppo di farvi le vostre vacanze come meglio sognavate. Ma ovviamente noi di CRM vi accompagniamo con la musica, lo facciamo ogni sabato con Speedy Top, sempre dalle 11 alle 13. Fabio Di Liberto con voi sino alle 13. Vi ringrazio, vi auguro quindi buon weekend e vi annuncio subito che questa settimana alla posizione numero 1 della nostra Speedy Top troviamo un nostro cantautore, Cesare Cremonini, con I Love You. Quindi buon weekend, buon proseguimento e buon ascolto. A sabato prossimo con CRM Speedy Top. Il disco più trasmesso della settimana su CRM Happy Radio, la numero uno della Speedy Top. Non so dirti quando ci rincontreremo io e te. Tu per la strada, coi dischi, la spesa. Io ancora ubriaco al caffè. Occhi negli occhi, diremo qualcosa sul tempo che va. Senza il coraggio di chiederci quanto è costata la felicità. Non so più chi sei. Sai, certe volte ci passo il mio tempo a invecchiare con te. Vivere per le abitudini come due inglesi all'ora del tè. Pensare per un attimo di averti ancora, se avessimo domande impaurite ci siamo scambiati io e te. quante risposte smarrite in un attimo senza capire perché. Un uomo e una donna non sanno pensare una vita a metà, ma quando finisce davvero l'amore ancora nessuno lo sa. Pensare per un attimo di averti ancora, se avessimo una vita in più, chiamarti prima di dormire come allora, solo per dirti una volta in più. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Un giorno non so dirti quando rincontreremo io e te, forse ridendo davanti alle stesse parole. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Sono le 13 e 6 minuti. L'ora esatta vi è offerta dall'orologeria e gioielleria Danna Vincenzo, Corso Ruggero 34, Cefalù. CRM Notizie. Un cordiale buonasera da Alessandra Iandolo. Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto contro il femminicidio. Arresto in flagranza per stalking e maltrattamenti e allontanamento del coniuge violento. Alcune delle misure. Il servizio di Elisa Esposito. Avevamo promesso un intervento di contrasto a tutto ciò che va sotto il nome di femminicidio. La promessa oggi è mantenuta. Un Enrico Letta visibilmente soddisfatto ha annunciato il varo da parte del Consiglio dei Ministri.